Uno, due, tre, prova. La presento. Dottor Lampis, c'è un posto riservato a lei? Sì, volentieri in piedi. Perché abbiamo paura che poi si defili e non visto. Sì. A me piace parlare in piedi anche se mi fa male la schiena. Questa volta invece, no. Invece di fare la prefazione al libro dell'amico Cagnan, faccio la postfazione perché non mi ha chiesto di farla. E allora io ce l'avevo pronta, ma lui non me l'ha chiesta, allora non l'ho potuta utilizzare. Pensavo di parlare proprio, proseguendo il discorso che era stato iniziato nell'altro libro, Delitti e Misteri, su che cosa, come si spiega questo fascino per il delitto. E particolarmente un certo tipo di delitto, cioè il delitto intelligente, perché ormai il delitto brutale, il delitto che deriva da passione, da pazzia o anche semplicemente da avidità, il delitto per soldi, è chiaro che è un aspetto squallido dell'animo umano, ma niente di più. E invece vi sono certo tipo di delitti che affascinano. Affascinano o direttamente per la loro quasi intelligenza, oppure affascinano tanto è alto il terrore che suscitano. Ho cercato anche di rintracciare storicamente quando è nato questo fenomeno e vi sono già nella storia della letteratura dei delitti, pensiamo dei delitti un po' gialli, pensiamo all'Edipo re di Sofocle in cui Edipo scopre di essere lui l'assassino quando è in carcere. E Amleto è senz'altro un tipo, un giallo molto sofisticato. Però il primo che ha posto l'accento sul fatto che anche il delitto può essere considerato da un punto di vista del suo fascino estetico, è stato Thomas de Quincey. Ho portato qui il libretto che fortunatamente avevo a casa perché mi sono occupato di queste cose fin da bambino, che è L'assassinio come una delle belle arti. Ora teniamo presente che questo libretto è stato pubblicato nel 1827 e non vi consiglio di leggerlo perché per noi ormai è pesante, ma con molta cultura, molto humor macabro, fa una conferenza per dimostrare come anche il delitto può essere fatto talmente bene, tipo quelli del Jack lo Squartatore, ad esempio, da essere non solo interessante per i poliziotti, ma essere interessanti anche per l'artista, per lo scrittore, perché hanno un suo fascino. Subito dopo, quindi si può dire che lui proprio ha indirizzato gli studi della letteratura gialla in questa direzione, perché qualche anno dopo, una ventina d'anni, 15 anni dopo, abbiamo Allan Poe che anche lui in molte novelle ha questa proprio attrazione per l'abisso, attrazione per il male, la chiama lui. E quindi anche lui ha affrontato questo abisso particolare della mente umana che porta la persona apparentemente normale a commettere queste stramberie. Già nell'antichità eravamo arrivati al vertice dell'assassinio organizzato. Voi sapete che il nome assassino deriva proprio dal famoso vecchio della montagna, circa anno 1050, che era un capo ismailita, cioè di una setta che si era separata dagli altri musulmani, e che nella zona, Giordano Bruno direbbe i ricorsi storici, a nord dell'Iraq, aveva fondato una specie di piccolo stato, cioè aveva occupato dei castelli e delle fortezze, e da lì mandava per tutto il regno arabo contro i turchi fino giù in Egitto, mandava assassini a far fuori i potenti, o quantomeno usava gli assassini come mezzo deterrente. C'è il famoso episodio in cui in Egitto un suo ambasciatore era andato per convincere il principe arabo a ubbidire a orientarsi sulla sua stessa politica, per usare un linguaggio moderno, e questo era recalcitrante, e perché si sentiva sicuro, e invece l'emissario dice alle due guardie del corpo: voi siete pronti a ammazzare il principe? Quelli dissero sì, e allora il principe capì che era meglio andare d'accordo. Questo vecchio della montagna, che si dice usasse l'hashish per indurre i suoi seguaci a commettere omicidi in cambio del paradiso che godevano con l'hashish, e da qui la parola assassino, e caso strano, si chiamava Hassan bin Sabah, che vuol dire che i nomi che c'hanno dentro bin devono essere estremamente pericolosi e vi raccomando assolutamente di evitarli, perché anche qui c'è un ritorno storico. Già all'epoca ci si era posti il problema di perché questo personaggio aveva così affascinato la letteratura del mondo, per cui ancora se ne parla, ha dato il nome agli assassini. Marco Polo, che passa in quella zona dopo 200 anni, ancora trova i residui di questo potere instaurato. E dice qualcuno che atteriscono perché queste persone non rispettano per scelta logica il principio fondamentale di umanità. A noi ci dà l'idea del male e loro si sentono dalla parte della ragione. Quindi rappresentano la giustificazione ideale dell'assassinio e quindi ci turbano notevolmente. Cercheremo di vedere come mai questo fenomeno sta ritornando nel XX secolo o periodicamente ritorna nella nostra civiltà. Pare che la giustificazione più fondata di questa anomalia dell'animo umano l'abbia data Nietzsche, indubbiamente è stato uno dei più grandi analizzatori dell'animo umano e dei suoi lati perversi. E Nietzsche dice che l'assassino è un individuo troppo forte per il suo particolare ambiente sociale. Pareto l'aveva già anticipato con la sua teoria, dicendo che in ogni categoria sociale vi sono elementi dominanti che rappresentano circa il 5% della popolazione e che questi elementi dominanti si distribuiscono abbastanza equamente tra politici e delinquenti. Voi sapete che proprio qualche anno fa in Canada è stato fatto uno studio in cui una tesi di laurea, si sosteneva proprio questa tesi che in fin dei conti la spinta che porta a delinquere o a darsi alla politica è più o meno lo stesso. Qualcuno diceva che, mentre diceva una battuta che potremmo attribuire a Nietzsche, diceva che mentre l'assassino ha la volontà di potenza, il politico ha la volontà di poltrona, ma non cambia poi granché. Questo principio l'hanno scoperto per esempio già i cinesi in tempo di guerra e avevano visto che con i prigionieri di guerra bastava escludere dal campo di concentramento e mettere dall'altra parte il 5% dei più riottosi, che gli altri poi li potevano lasciare tranquillamente senza neanche sorvegliarli, perché non ce n'era assolutamente bisogno. E quindi, forse aveva ragione Nietzsche quando rintracciava l'origine del fenomeno in questa volontà di potenza, che tra l'altro Nietzsche l'aveva presa poi da Schopenhauer, dalla sua opera Il mondo come volontà e rappresentazione. Quindi siamo di fronte a dei soggetti che sentono la società come un limite e quindi la disprezzano. È vero, se facciamo un passo indietro nella storia, è vero che nei politici, chi si dà alla politica, prevale la volontà di potenza? Beh, indubbiamente prendiamo tipi come Richelieu, che era partito già a 15 anni, deciso a diventare il capo dello Stato francese, o Napoleone, anche lui partito giovanissimo per conquistare la Francia, è senz'altro gente che ha ottenuto in politica molto di più di Casanova, che invece pensava alle signore, e quindi la volontà di potenza prevale senz'altro, perché ho parlato di Casanova, perché a un certo momento dopo Nietzsche se n'era venuto fuori Freud, il quale aveva detto che tutto derivava non dalla volontà di potenza, ma dalla libido. Tesi immediatamente superata, come voi sapete, da Adler e dall'etologia con Conrad Lorenz. E infatti vi è sia Conrad Lorenz nel libro Il cosiddetto male, parlo di libri perché siamo nella biblioteca, quindi mi pare giusto fare delle citazioni bibliografiche, sia, dicevamo, Conrad Lorenz, sia Robert Ardrey, libro L'istinto di uccidere, che è del 1961, hanno dimostrato, su basi etologiche, con raffronto con gli animali, che il sesso è solo una manifestazione modesta della volontà di potenza. Conta molto di più il dominio sul branco e sul territorio. E quindi ora si ritiene che avesse ragione Nietzsche col suo impulso evolutivo. E quindi è la volontà di potenza che a spingere e non il desiderio sessuale. Pensiamo, oltre a Richelieu e Napoleone, ai Borgia, pensiamo a Hitler, che senz'altro non erano dei grandi amatori. Per Freud sarebbe, la teoria di Freud era un po' scadente, sarebbe come se io fossi, dice, Mori è venuto qua solo perché c'è la dottoressa Trevisan, e che non sono venuto per lei perché ho accettato di venire prima di conoscerla, quindi assolutamente vuol dire che la teoria di Freud è assolutamente infondata. Però, insomma, voglio dire, ecco, torneremo a prendere i libri. Poi vi sono altre teorie meno importanti che dicono che è un fenomeno della nostra necessità di avere comunque un'immagine di fronte a noi stessi e di fronte ai terzi, una specie che abbiamo bisogno di uno specchio in cui osservarsi, ed è la molla che spinge quei soggetti che si danno al delitto e si scopre poi che sono carenti di personalità, cercano di darsela con il delitto. Quindi il delitto è rappresenta per costoro una realizzazione che si ottiene punendo la società. E se poi parleremo, alla fine ci sono quasi, concludendo, vediamo che effettivamente molti di quelli che si chiamano contestatori che vanno a bruciare le macchine, diciamo, cose del genere, si nota che effettivamente alla base c'è un forte problema di personalità, forte complesso di inferiorità, per il fatto molte volte giustificato, voglio dire, perché ricordiamoci che di solito chi ha il complesso di inferiorità è anche inferiore, e quindi sono portati a commettere questi atti proprio come reazioni. E per Dostoevskij, che era anche lui un esperto, perché anche lui aveva delle tendenze psicologiche che lo portavano a occuparsi di questi problemi, forse dentro di sé a sentirli, l'assassino reagisce a un vuoto interiore, e Dostoevskij infatti è sempre un debole o un debole, che poi da Dostoevskij si passa a Kierkegaard, l'esistenzialismo, nel libro Out, per cui per Kierkegaard l'omicidio è solo un desiderio di sottrarsi alla noia esistenziale. E poi a dimostrazione che nell'assassino logico, diciamo, via questa componente di volontà attiva di darsi da fare, si cita Hitler, il quale di Goethe apprezzava un solo verso, tutto il resto diceva che non gli piaceva, ma dice c'è un grande verso di Goethe, è Im Anfang war die Tat, dal Faust, all'inizio vi era l'azione. Quindi persone che sentivano come superamento dei propri limiti la necessità di agire, di fare qualche cosa, il che su questo filone poi ha portato a una letteratura post-esistenzialista del cosiddetto gesto gratuito. Chi ha letto Gide, Le segrete del Vaticano, si ricorderà questo personaggio, l'Afcadio, che commetteva degli omicidi gratuiti in nome della libertà, dell'autosviluppo, ma però era chiaro che è soltanto una scusa di fronte a se stesso. Percorso ripreso poi ampiamente da Sartre in suoi libri come Erostrato, Il diavolo e il buon Dio, Il cammino della libertà, dove è pieno di questi atti, assolutamente, di questi omicidi assolutamente politici. Non so, ecco, quanto rientrano in questo campo gli omicidi politici, noi cioè, o perlomeno ci danno un'altra visione, che è importante anche quella. Ci sono stati un'infinità di assassini politici, pensiamo Clément in Francia, che fece fuori Enrico III, ma lì era un caso particolare perché era un frate che prima era andato a confessarsi dal suo prete, gli aveva chiesto se ammazzare un re indegno era giusto, il parroco, il prete, gli aveva detto che era giusto e quindi lui l'aveva fatto. Poi Ravaillac, che aveva ucciso Enrico IV, Orsini, la bomba a Napoleone III, non era riuscito a ucciderlo, però la volontà c'era. Cresci, che aveva fatto fuori Umberto di Savoia, poi i serbi con l'arciduca Ferdinando, e quasi sempre, ecco, in questi soggetti c'è una componente prima di tutto di odio immotivato, quindi gente che uccide un simbolo, non vuole uccidere la persona, e poi anche qui è contestazione, ritorniamo a questa parola contestazione, come autosoddisfazione. Infatti diceva Bakunin nel catechismo di un rivoluzionario che tra rivoluzione e società c'è una guerra a morte, una guerra mortale. Però qual è la chiave di queste persone, che poi appunto ritroviamo ritroviamo negli assassini della montagna, ritroviamo in Bin Laden, ritroviamo gli altri, è il fanatismo totale. E quindi introduce quell'altra categoria di persone che diventa pericolosissima se si somma alla volontà di potenza di coloro che ritengono di avere la verità. Non c'è niente di peggio di chi ritiene di avere la verità e non si ferma di fronte a nessun mezzo pur di realizzarla. Per venire ai nostri tempi, poi ho finito, ho trovato una bella riflessione di Aldous Huxley. Voi sapete che Aldous Huxley è stato un grande, perché nel suo libro Un mondo nuovo, uscito mi pare nel 1927, aveva scritto un libro tipo fantascienza in cui diceva come sarebbe stata la società umana dopo 200 anni. Ci aveva azzeccato talmente tanto che nel 1955-56 aveva scritto un seguito, un appendice a questo suo libro del 1927 per dire: guardate che mi ero sbagliato, ciò che io mi prevedevo che sarebbe arrivato fra 200 anni ce l'abbiamo già, si è realizzato invece nel corso di 30 anni. Quindi Aldous Huxley, che è stato un grande, notava questo ancora tanto tempo fa. Dice: vi è stato un cambiamento nella società e nei rapporti umani. Prevale la premessa del timore e dell'odio. Ci si isola, si respinge la realtà sgradevole. Siamo preda di una leggera schizofrenia. E in effetti noi vediamo che nella nostra società vi è un aumento sicuro della violenza. Nel passato prevaleva la violenza di Stato, certe volte anche terribile, ma con la violenza di Stato, questa violenza di Stato teneva a freno la violenza singola, o con le prigioni, oppure con quel grande sfogo della guerra, che si prendevano tutti i rompiscatole violenti, eccetera, si inquadravano in un esercito, si mandavano a morire, e alla fine restavano quelli che avevano meno voglia di combattere, meno volontà di potenza, e che quindi sentivano molto di più l'istinto di salvare la pelle. E questo però, ecco, portava che i violenti giravano ben poco per le strade, perché finivano in prigione, lo facevano fuori in certi tempi, oppure venivano isolati. E adesso invece i violenti girano abbastanza tranquillamente, purtroppo anche maleducati, ma pazienza, purtroppo poi oltre ai maleducati ci sono i violenti, girano per le nostre strade. E quindi leggevo oggi una trasmissione in Inghilterra, nelle scuole disperate per la violenza fra studenti, e quindi ci sono quelli che bruciano le macchine, ci sono quelli che impediscono agli altri delle loro normali occupazioni, magari gli impediscono anche di dormire di notte, che anche quella è una forma di violenza notevole. E lo Stato, a furia di negare che si debba usare la violenza, non sa più cosa fare, perché alla fine si è ritrovato inerme. E con un altro grave fenomeno, che a un certo momento le stesse vittime, per paura, diventano violente, la famosa reazione del topo, a un certo momento diventeranno violente anche loro. Io mi sono meravigliato in Francia che nessuno dalla finestra non abbia ancora sparato nella schiena che gli bruciava la macchina, perché non so se lo potrebbero fare, penso in Sicilia o in Calabria, di andare a bruciare le macchine di notte per Reggio Calabria o per Palermo. Comunque in Francia pare, non so, pensavo più violenti i francesi, forse qualche speranza c'è. E quindi il cerchio si chiude. Avete visto, siamo partiti dai fanatici, dai violenti del passato, siamo arrivati ai nostri violenti, abbiamo visto come i filosofi hanno individuato queste spinte, e quindi ci ritroviamo con una spiegazione che più o meno, spiegando la nostra situazione, anche il mondo attuale, una certa base di coerenza e il fondamento deve averlo. Ecco, questa è la prefazione che avevi fatto per presentare l'ottimo libro di Cagnan, in cui ha ripreso degli delitti celebri di Bolzano, dei casi celebri di Bolzano. Due sono delitti celebri, no, uno è un delitto celebre insoluto. La giustizia, pasticciando forse un po', aveva indagato, aveva creduto di aver trovato qualcuno, poi, come sempre avviene, quando il presunto colpevole non è colpevole, le prove intanto si sono disperse e quindi è impossibile ricominciare da capo, e quindi si è rimasti con un pugno di mosche. Poi, questo era il famoso nome del, io lo conosco sempre come l'impiegata dello studio Giatti, infatti si chiamava Monte Bugnole, non me lo sono mai ricordato. E poi un caso che è interessante per dimostrare quanto la psicologia umana può tante volte possa essere debole e baccata, di quello che si è fatto segare la gamba per frodare l'assicurazione, tra l'altro creando un bellissimo caso giuridico che avrebbe potuto dare luogo anche a qualche tesi di laurea, tanto era interessante, e poi un caso, che non sappiamo ancora se è un caso, speriamo che non sia un caso, ma forse diventerà un caso, della signora scomparsa, scomparsa senza motivo, il motivo ce l'aveva forse, non facciamoci denunziare, forse il marito si sospetta che ce l'avesse il marito, è dura in questi casi gestire un processo e svolgere un processo, perché senza il morto, il famoso, come chiamano, lo dico in inglese, habeas corpus, sì, no, l'habeas corpus è un'altra cosa, non diciamo, non finiamo su Striscia la Notizia. Non mi ricordo più, ecco, se non c'è l'elemento base per dimostrare che un reato, che un omicidio è avvenuto, è difficile creare un omicidio presuntivo, presunto, e poi, perché alla fine ci troveremo con un presunto responsabile che non è molto giusto condannare finché è presunto. Quindi un'opera interessante, quindi, che ora l'autore ci illustrerà meglio di quanto posso fare io. Grazie. Buonasera. Io sono sempre contento quando posso parlare assieme al dottor Mori, perché noi abbiamo già fatto diverse conferenze assieme e devo dire che in genere parla sempre prima lui. E questa cosa da un lato mi atterrisce e dall'altro mi tranquillizza, nel senso che dopo le sue relazioni in genere io potrei dire va bene, grazie, arrivederci, io vado a casa. E dall'altro diciamo che ci alterniamo bene, perché poi rispetto a una cornice diciamo così alta si possono capire anche meglio alcuni aspetti pratici delle ricerche che faccio io, ad esempio del perché io abbia scelto questi tre casi, e ovviamente questa cosa si ricollega anche a tutto quello che è stato detto. Non so se l'operazione sia riuscita o meno, io mi trovo in una situazione un po' particolare, nel senso che il libro è uscito a maggio, giugno, quindi sono passati dei mesi, e quindi per me è un po' difficile capire se devo più stare su una prefazione o su una postfazione, nel senso che è difficile capire se devo dare per letto il libro oppure se devo presentarlo, quindi terrò una via di mezzo, anche perché l'obiettivo vero non è proprio quello di presentare il libro, ma di utilizzarlo come spunto per alcuni ragionamenti. Il dottor Mori è partito dai delitti intelligenti e dall'assassinio come una delle belle arti, che per i cultori della materia è un libro fondamentale, insomma, per capire, per discutere di queste cose. Il delitto intelligente, ecco, ad esempio io posso dire a distanza di mesi dall'uscita di questo libro di avere sopravvalutato l'interesse che poteva suscitare il caso della motosega. Probabilmente per il motivo che in qualche modo ha già spiegato il dottor Mori, cioè che anche se è brutto usare questi termini, il fascino del male è legato all'intelligenza e non alla stupidità, e questa è una considerazione abbastanza banale. Diciamo che la reazione base quando si parla del caso della motosega è sempre di due tipi, una specie di risata isterica e una forte dose di ribrezzo, e fra queste due reazioni apparentemente molto diverse tra di loro, cioè l'idea del fatto agghiacciante e l'idea dell'idiozia, che poi è l'esatta cifra, cioè il mix di queste due cose è la cifra di quanto avvenuto, ecco, questi due estremi però ravvicinati danno un po' l'idea anche di come noi ci rapportiamo nei confronti di questi tipi di avvenimenti. Per non dare per scontato tutto, ricordiamo un attimo cos'era successo. È successo che questo ragazzo praticamente aveva deciso di farsi segare la gamba dal cugino, pensando di poter riportare semplicemente una mutilazione, di poter vivere con una protesi, di incassare i soldi dell'assicurazione che aveva fatto ad hoc e poi di vivere bene. Al di là poi con un corollario di ingenuità incredibili, cioè lui aveva fatto i corsi di primo soccorso come volontario della Croce Bianca, aveva preso un'aspirina credendo che gli bastasse per curare il male, o tutta una serie di, hanno fatto delle prove tecniche con la motosega, cioè cose che dette così viene da sorridere, io mi rendo conto. Al di là della buona dose di estremo che c'è in questa cosa, ma soprattutto nella dinamica, c'è invece un'idea che è largamente diffusa in ampi strati della società, cioè quella della scorciatoia. Cioè, quante persone al giorno d'oggi cercano una scorciatoia per fare i soldi, per trovare la ricchezza, il successo? Questo è un tema generale molto interessante. Allora, se noi vediamo la motosega, noi vediamo una cosa che ci fa ridere, oppure che ci atterrisce per la violenza del fatto in sé, che però viviamo come altro rispetto al nostro mondo, e quindi tutto sommato non è poi così interessante, perché alla fine quello che diciamo è: poveri diavoli, ho scritto io, potete metterci qualunque altro aggettivo che io non posso scrivere, ma la sostanza non cambia. Se noi ragioniamo in questi termini, allora sì, ci rendiamo conto che tutto sommato è una cosa molto banale, hanno fatto una cretinata, una drammatica cretinata, e la cosa è finita lì. In realtà il mio interesse era quello di cercare intanto di capire se questa cosa che è successa in Alto Adige, in un posto specifico, poteva succedere anche altrove. Perché tutto sommato c'è una certa contestualizzazione. Ad esempio, io ho scoperto che la storia familiare di entrambi è talmente segnata da incredibili incroci di disastri familiari, per cui sono tutti parenti tra di loro, ma tutti con storie disastrose alle spalle, soltanto un eventuale diagramma della loro storia familiare avrebbe tutto sommato dato una risposta affermativa alla domanda: è successo qui e c'è un motivo? Perché comunque siamo una terra dove molti stanno bene e chi non sta bene aspira giustamente a essere come gli altri, per cui il contadino gira con la Mercedes e poi c'è la classe, è un sistema di caste in un certo senso, soprattutto in certi posti tipo l'ANAM, cioè voglio dire, c'è la casta degli albergatori, c'è la casta dei ricchi commercianti, c'è la casta di quelli che hanno un posto di potere e che se lo gestiscono come tale. E insomma, chi è fuori, chi è dentro è dentro. In questo sistema sicuramente c'è qualcuno che, non avendo una legittimazione sociale, Christian ad esempio, ragazzo che ha segato la gamba, era fuori dal tessuto sociale, cioè l'unica cosa che aveva cercato di fare era pompiere volontario, perché quello era un po' il timbro della possibile accettazione, laddove l'associazionismo diventa fondamentale per coinvolgere le persone. Allora diciamo che l'idea della scorciatoia poi non è così folle in sé, l'idea di cercare di fare i soldi in qualche modo. Certo che poi insomma ci sono tanti modi di cercare di fare i soldi, loro hanno scelto questo ed è finita in questo modo. Io mi sono reso conto che però questo mio messaggio, questo mio tentativo di ragionare in questi termini non è stato molto capito, perché rispetto agli altri, e quindi ho sbagliato io, perché se non è stato capito ho sbagliato io, perché è più forte comunque la tentazione di dire vabbè, insomma, questi due, fatto assolutamente così, insomma. Lì la cosa interessante, di cui adesso coinvolgo subito il dottor Mori, perché è stata appena accennata, noi cerchiamo di parlare un attimo, magari 5 minuti, di una questione che è la base di tutti i processi per delitti che ci sono in Italia, c'è la questione della infermità mentale. Qui in realtà c'era anche un piano giuridico molto interessante, che era quello della qualificazione giuridica del reato, cioè che tipo di reato ha commesso sto povero Cristo che ha tagliato la gamba all'altro. Però questa sarebbe una disquisizione giuridica un po' complicata, sarebbe interessantissima ma difficile, e quindi io questa la lasciamo stare, perché insomma è una cosa da giuristi. C'è però il concetto fondamentale, che ormai tantissimi tantissimi casi di cronaca nera, se non tutti, vengono risolti sulla base delle perizie psichiatriche, in cui, e lo dico senza alcun spregio della categoria, ma che credo senza poter essere contestato, non essendo la psichiatria forense una scienza esatta, si può dire più o meno tutto il contrario di tutto, per cui ci sono anche fior fior di professionisti che possono arrivare a sostenere delle tesi clinicamente agli antipodi in un processo o nell'altro, a seconda che siano stati chiamati dall'accusa o dalla difesa. Mentre ci sono invece degli specialisti della difesa, degli specialisti dell'accusa, cioè specialisti il cui compito sostanzialmente è quello di dire, se sono consulenti di parte del PM, che queste persone sono sempre sane, e specialisti che al contrario, chiamati dalla difesa, vedono matti dappertutto. Ora ovviamente io non dico che sarebbe sbagliato pensare che la soluzione stia nel mezzo, perché in questo caso il discorso è un po' più complicato, diciamo che nella maggior parte dei casi non ci sono delle malattie mentali evidenti, tali quali il legislatore ha ritenuto così importanti da scemare la famosa volontà di intendere volere, cioè non si tratta di stabilire se uno è matto o meno, si tratta di stabilire in base alla legge se nel momento in cui ha commesso quel reato aveva o meno coscienza di quello che stava facendo, detto in termini un po' semplicistici. Certo è che questo ormai c'è un influsso fortissimo della psichiatria forense praticamente in tutti i casi di cronaca nera, e questo condiziona molto anche i giudici, soprattutto perché nei casi di omicidio c'è non ci sono solo i giudici togati, ma ci sono anche i giudici popolari. I giudici, se posso dirlo, i giudici popolari secondo me si trovano spesso ostaggio delle perizie. Le perizie diventano un fatto comodo, nel senso che ti evitano di decidere, perché se i periti dicono che questo è matto, cosa vogliamo farci? È matto, pazienza. Se invece, quindi insomma, io ritengo che ci sia un effetto perverso sovradimensionato della presenza della psichiatria nelle aule di giustizia. Adesso non so se... No, il problema si è complicato nella storia, perché una volta, quando non erano medicine, il caso era semplicissimo. C'era uno che doveva essere richiuso assolutamente, si sapeva che non si poteva liberare, e quindi la scelta era: lo mandiamo in carcere, lo mandiamo in manicomio, tanto non se ne frega niente a nessuno la differenza, e solo così, perché si riteneva ingiusto mettere il malato di mente in carcere. Poi stava molto peggio in manicomio, ma comunque la scelta era questa, per cui tanto si sapeva che non guariva, e quindi la scelta era semplice. Purtroppo poi, fortunatamente per, sotto certi aspetti, ma diciamo per il nostro problema, è successo che è intervenuta, sono intervenute le cure chimiche della psichiatria, e ora molti casi possono essere risolti, e quindi effettivamente vi sono molti casi in cui una persona ha commesso un delitto come malato di mente, sottoposto ad adeguato trattamento, dopo qualche anno potrebbe tornare in libertà e non essere più considerato pericoloso. Ecco, il problema è che questa situazione ora è talmente fluida e talmente incerta e talmente inafferrabile anche dal punto di vista della psichiatria, come diceva Cagnan, che si arriva a sfruttarla più che altro soltanto a fine di diminuire la pena di una persona o farla uscire prima. Perché già non riusciamo a tenere dentro chi è stato ritenuto omicida della mafia, 40 omicidi, 25 omicidi, che prende 8 ergastoli e poi dopo 20 anni esce comunque. Ecco, e quindi già abbiamo calato le braghe di fronte a questo problema. Figurarsi quando ci si trova di fronte all'ammalato, per cui basta spingere un po' sulla capacità di intendere il volere, ma forse è recuperabile, forse non sapeva quello che faceva, che c'è il rischio di trovarsi un sacco di gente pericolosa che si fa qualche mese o al massimo un anno o due in manicomio e poi viene mandata a casa. Abbiamo avuto tempo fa quel caso, non mi ricordo come si chiamava, di quello mandato a casa in permesso dal giudice giù in Sicilia, che è andato a casa, si è fatto fuori due persone, perché il medico aveva detto sì, ormai aveva fregato ampiamente il medico, perché poi a imbrogliare uno psicanalista non ci vuole niente, e basta aver letto ovviamente qualche libro di psicanalisi, e questo l'aveva talmente convinto di essere tornato apposta che l'ha mandato a casa. Diciamo che la miglior garanzia era quella data dall'esperienza millenaria di una volta, che di fronte a condotte gravissime non gliene fregava niente se uno migliorava o no, diceva: guarda, non mi fido e tu stai dentro, e ai fini della sicurezza della società era senz'altro meglio questo. Io cito sempre, perché Goethe aveva un principio per lui importante, che l'ha ripetuto almeno 3 volte nelle sue opere con formulazioni leggermente diverse, e diceva sempre: preferisco una ingiustizia a un disordine. E forse, se consideriamo che Goethe era un genio, può darsi che ci avesse ragione. Adesso, ad esempio, un caso che sarà molto interessante dal punto di vista delle conclusioni, non tanto giudiziarie quanto proprio psicologiche, è quello dell'infanticidio di Merano, quello accaduto quest'estate, perché soprattutto quando ci sono dei casi come questi, che diciamo escono dai binari della casistica tradizionale, soprattutto quando ci sono di mezzo bambini o quando ci sono di mezzo donne assassine, e quando addirittura la categoria si incontra, e quindi quando c'è un infanticidio, sono tali le resistenze psicologiche di chiunque ad accettare una realtà, diciamo, banale, semplice, pensate insomma al caso di Cogne, che veramente si spera in qualche modo che ci sia qualcun altro che decida per noi, cioè nessuno vorrebbe essere chiamato a giudicare questi casi. E soprattutto... E non vengono giudicati di solito, questo qui è un caso che nel 99 su 100 non arriverà finisce mai. Prima. Ma sì, perché una donna che ha commesso un atto del genere, se non è di cogne, non si riprende più. Penso di aver capito cosa pensa del delitto di cogne. E quindi, insomma, sì... L'osservazione è questa, cioè proprio per tutti questi filtri che ci sono, che in qualche modo fanno anche comodo, poi succede che alla fine diventa una battaglia psichiatrica e basta. Al contrario, diciamo, di questo caso che in qualche modo nell'immaginario collettivo è stato archiviato, come dicevo, con diciamo questa sensazione di ribrezzo per il fatto agghiacciante in sé, o di risata di scherno per come hanno cercato di condurre questa truffa. Il secondo caso di cui mi sono occupato in questo libro ha avuto una, da quello che ho visto, una reazione inaspettatamente più alta di quella che io pensassi, del caso della scomparsa di Rida Prantner. Il fatto è avvenuto nel 2002. Qualcuno se lo ricorda un po' come, diciamo, il giallo della crociera, perché la signora stava per andare in crociera con il marito, è scomparsa la sera prima, lui è partito lo stesso per la crociera con la sua compagna filippina, la denuncia è stata fatta molto tardi, le indagini anche sono partite con un certo ritardo, era comunque estate, poi si sa, le persone spariscono ma poi ritornano, poi c'è la sindrome da chi l'ha visto al contrario, cioè non la sindrome della denuncia di mille casi di persone che poi tornano, ma l'idea che comunque poi... quasi tutti ritornano, nel senso che noi ad esempio in redazione al giornale abbiamo tantissime persone che vengono a segnalare ancora prima al giornale o a chi l'ha visto ancora prima che alla polizia e ai carabinieri di qualcuno che è scomparso magari neanche da 2 ore, e poi noi qui siamo famosi sulle ricerche di 200-300 persone per... Le ricerche non c'entra niente, però è divertente. Cioè, noi qui abbiamo una struttura di volontariato, per cui se un turista tedesco di 93 anni che voleva scalare l'Everest non torna a rifugio, si muovono subito 700 soccorritori. In realtà lui a rifugio c'era, ma non se n'era accorto nessuno. Sono un mucchio di situazioni come queste, però l'idea della capacità di mobilitazione e del fatto che una persona possa essere cercata immediatamente è abbastanza diffusa. Qui in realtà tutta la macchina si è avviata piuttosto tardi, poi è passato da luglio a ottobre, quando il marito è stato indagato per omicidio, è stato quindi sospettato, proprio incriminato per omicidio volontario, occultamento di cadavere, cioè per aver ucciso la moglie e averne nascosto il corpo. E questo è un caso difficile, tecnicamente è stato archiviato, adesso qui poi coinvolgerò di nuovo il dottor Mori, perché l'aspetto interessante di questo caso, che ha coinvolto tutte le persone, è forse il motivo opposto per cui il caso della motosega ha un coinvolgimento emotivo molto minore. Cioè, quella è una cosa che noi stabiliamo che è capitata a loro e non poteva capitare a noi. Cioè, non c'entriamo nulla. E pensate a quanti tipi di delitti, anche di criminalità comune, non hanno nessun coinvolgimento emotivo. Cioè, un delitto di mafia non ci coinvolge perché è una cosa lontana, però se uccidono un bambino, se uccidono un'altra persona, anche se è un delitto di mafia, ha una componente emotiva molto forte. I delitti di certa criminalità, gli sgarri, le vendette, cioè cosa si dice, finché si ammazzano fra di loro, cioè questa è la reazione banale, brutale che si ha. Il coinvolgimento maggiore viene dai casi in cui in qualche modo ci si può immedesimare. Allora, una donna che scompare all'improvviso e che si ritiene possa essere stata uccisa dal marito in una storia banale di matrimonio, banale intendo nel senso di non eccezionale, di non straordinaria, una storia di matrimonio naufragato, di affetti diversi, di difficoltà di gestire i figli, la famiglia, l'abbandono del tetto coniugale, e questa è già una cosa diversa che coinvolge molto di più. Qui la procura ha indagato, ha trovato a suo dire tutta una serie di indizi di colpevolezza a carico del marito, che però non sono sfociati in un processo, meglio, non sono neppure sfociati nella richiesta della procura di andare a processo. E questo per una strategia che è una questione di forma, che però diventa anche sostanza e che introduce il vero tema, ovvero non c'è il corpo, non c'è il reato. Non è un principio, adesso il dottor Mori se mai mi bacchetta, da quello che so io non è un principio giuridico, cioè non fa giurisprudenza, però è una considerazione di tipo pragmatico, cioè posso andare io a sostenere l'accusa in un processo accusando il marito di aver ucciso una moglie il cui corpo formalmente non è mai stato ritrovato? La logica della procura è stata quella di dire no, ma soprattutto perché non l'ha fatto la procura? La procura non l'ha fatto per un ragionamento, diciamo, di strategia generale, ovvero io sono convinto che sia stato il marito, ho una serie di elementi che ritengo molto forti in un processo che comunque sarebbe fortemente indiziario, cioè sarebbe un insieme di indizi perché la prova non c'è. In questo caso io devo scegliere se chiedere il processo e rischiare di perderlo, e vorrebbe dire chiudere definitivamente il caso, perché per il principio del ne bis in idem nessuno può essere processato due volte per lo stesso reato, quindi se il signor Mirandola venisse assolto e un domani si trovasse il corpo della moglie, lui non potrebbe più essere processato per quello stesso reato. E quindi la procura dice, prima o poi forse noi riusciremo a trovare il corpo, e se troveremo il corpo, allora a quel punto noi procederemo. Chiaramente poi il discorso non è così semplice, perché trovare il corpo di per sé non vuol dire nulla. Adesso non scendiamo nei particolari. Dipende, certo, questo volevo dire, certo. Dipende ovviamente da come questo corpo viene trovato. Se in cantina sua. Se in cantina sua è un conto, certo. Potrebbe, visto il tempo trascorso, potrebbe non essere possibile stabilire le reali cause di morte. Allora può essere già importante trovare il corpo, ma l'accusa potrebbe trovarsi nella condizione di non essere in grado di stabilire e di certificare che si è trattato di una morte violenta. Ad esempio un corpo gettato nel fiume senza segni di colpi d'arma da fuoco, di colpi d'arma bianca, di coltellate, eccetera. Considerando poi il tempo trascorso, quello potrebbe essere tranquillamente un suicidio, potrebbe essere un incidente, è scivolata, si è buttata, è stata... Potrebbe dire di aver buttato via il cadavere perché non voleva che si sapesse della morte per gli affari economici che poteva... quindi morte naturale, ma ho nascosto il cadavere, quindi se la cava... Potrebbe anche essere un omicidio preterintenzionale, cioè potrebbe dire... Morte naturale, sì. Dice, non volevo che la ditta chiudesse perché lei era l'intestataria, mi interessava mantenere i piedi, quindi ho fatto sparire il cadavere. Poi, siccome avete accusato di omicidio, sono stato zitto perché è chiaro che non mi conveniva, avevo paura che non mi credeste. Però anche senza questa ipotesi così estrema, c'è anche quella del cosiddetto preterintenzionale, cioè abbiamo litigato, è scivolata, è caduta, ha battuto la testa, preso dal panico ho nascosto il cadavere. Il problema è che il cadavere non si trova e quindi la procura ha deciso di non andare a processo. In realtà più o meno nello stesso periodo è successo un caso quasi gemello, sempre qui, nel senso che c'era un'altra signora che si chiama Ingeborg Larcher che è scomparsa. Anche lì praticamente è scomparsa nel nulla, qui c'è una pista che porta all'estero, però diciamo la signora aveva una serie di appartamenti fra Bolzano e Merano, è scomparsa nel nulla, il suo convivente è stato sospettato, lì adesso poi non mi ricordo perché quando ho presentato il libro al cittadino mi ha corretto il capo della mobile perché mi sembra che avessero trovato degli indizi di colpevolezza più forti rispetto a quelli del caso Mirandola, addirittura lui era sospettato di aver ucciso la prima moglie e c'era un coltello. Però adesso senza voler fare dei parallelismi tecnici, lì cos'è successo? In Germania lo hanno preso, l'hanno ingabbiato, l'hanno messo sotto processo e se ne sono fregati del fatto che non ci fosse il corpo. Vi vorrei ricordare, prima di sentire il dottor Mori su questo, che è successo un caso simile qualche anno fa con quel serial killer, il contadino che abitava in un maso sopra Ponte, fra Bolzano e Chiusa, Campodazzo. Lui praticamente era stato accusato di aver ucciso due prostitute perché diceva che lo prendevano in giro, gli spilavano i soldi. Lui viveva in un maso, in una condizione allucinante da medioevo, veramente una cosa incredibile. E lui è stato accusato di aver ucciso queste due prostitute. E nel secondo caso, quello della Petra Lunardi, una ragazza di Merano, il corpo non è mai stato trovato, però a casa sua c'erano gli occhiali di lei. E poi mi sembra che ci fosse anche un anello, insomma c'erano diversi effetti personali. Lui dice che praticamente lì nei dintorni del Maso lui l'ha gettata, mi sembra, nel torrente, il torrente era in piena, si è portato via il corpo. Lui ha ammesso di averla uccisa. Questo è un caso ancora anche interessante, perché lui ha detto sì, noi abbiamo litigato, poi lui dava una versione, diciamo, in chiave difensiva, cioè diceva sono state loro ad aggredirmi, quindi nella sua testa, però probabilmente anche nella realtà l'idea era quello che lui non voleva ucciderle, però era un omone grosso, l'ha spinta, lei ha battuto la testa, è caduta, è svenuta, il fiume l'ha portata via, il corpo non è più stato trovato e lui non è stato condannato per questo reato. E quindi qui si tratta di capire, adesso io le chiedo una questione tecnica che diventa anche sostanza, cioè è davvero così, cioè possiamo dire che c'è un principio non scritto in cui in assenza del corpo non si può andare a processo? Se fosse arrivata il pubblico ministero da lei, la procura, e le avesse chiesto di mandare a processo il marito senza il corpo, lei, non le chiedo un giudizio, però vorrei capire quali elementi avrebbe tenuto in considerazione. Ma diciamo che ci voglia il corpo, mi pare che deriva anche dalla Bibbia, quando Dio chiede a Caino, dice cosa hai fatto di tuo fratello? Si vede che anche Dio voleva sapere dove era questo corpo. Ora, ci sono dei casi in cui le circostanze possono consentire di fare a meno del corpo. Prendiamo, non so, il conte Ugolino, se gli andavano a chiedere cosa hai fatto dei figli e non li trovavano, è ovvio che potevano pensare che li avesse ammazzati, perché però potevano anche essere morti. Comunque c'era una prova sicura che lui aveva il controllo della situazione, se la situazione era stata alterata doveva essere in qualche maniera intervenuto. Ora, adesso ecco, forse Cagnano non si è reso conto che il libro, quelli tanto interessati erano i mariti, non erano i lettori, erano i mariti che volevano sapere come avrà fatto questo.